Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Buongiorno a tutti, venerdì 28 novembre, benvenuti ancora una volta a Salvadanaio, ultima puntata della settimana. Le borse scendono anche oggi, il mattone resta ancora caro, che fare allora? Molti scelgono di restare liquidi, per così dire, in termini tecnici. Così è partita la corsa delle banche online per conquistare clienti allettati da alti rendimenti, la possibilità a volte di entrare e uscire senza vincoli. Gli istituti di questo settore, d'altra parte, si stanno facendo una pubblicità davvero aggressiva a colpi di continui spot pubblicitari e fiorire di offerte. Come districarsi dunque? Oggi in collaborazione con Plus parliamo quindi di conti correnti online e anche di conti deposito per capire quanto rendono, quanto costano. Il numero per chiamare l'800 24 00 24, oppure se volete mandarci un sms con una domanda, con un'esperienza da raccontare, 349 238 6666. Abbiamo molti ospiti con noi per poter parlare, oltre ai collega di Plus, ma prima di presentarveli e di parlare di questo tema diamo uno sguardo ai nostri listini. Questa mattina le borse in mattinata sono peggiorate abbastanza improvvisamente dopo un avvio all'insegna dell'incertezza. Gli investitori hanno deciso di prendere profitto sfruttando i rialzi delle ultime sedute. Oggi la borsa americana tra l'altro resterà aperta per metà giornata dopo la chiusura di ieri per la festa del ringraziamento. Francoforte quindi cede lo 0,99%, Parigi lo 0,21%, intorno alla parità invece Londra, mentre Milano è in questo momento la peggiore, il Mibtel è in ribasso dell'1,5% e il Mib30 dell'1,7%. In particolare sul listino milanese, fra i peggiori i titoli ST Microelectronics, meno 5,33% dopo il taglio delle stime per il quarto trimestre. Il titolo continua a cedere terreno. E poi le banche in generale hanno girato in negativo a metà mattina in attesa di una soluzione sul decreto del governo per il rafforzamento patrimoniale degli istituti. Debole UbiBanca, meno 1,57% dopo l'annuncio delle dimissioni da parte dell'amministratore delegato Auletta. In calo Unicredit, che ha perfezionato la cessione degli sportelli. La banca, relativamente alla tutela dell'investimento dei propri clienti sottoscrittori di polizze con sottostanti obbligazioni Lehman Brothers, ha precisato tra l'altro con una nota che l'impatto complessivo previsto sull'utile netto consolidato 2008 per il gruppo Unicredit sarà di 106 milioni di euro, in linea con le attese. Male anche Intesa San Paolo, meno 3,5%, e questa mattina sono vendute a piene mani anche le Telecom Italia, meno 3,25% dopo il mini rally delle ultime sedute innescato dall'attesa per la presentazione del piano industriale in calendario il prossimo 2 di dicembre. Bene Fiat, più 1,05%, che prosegue la corsa insieme al settore auto sull'attesa di aiuti nell'ambito del piano europeo da 200 miliardi. Bene anche Atlantia, la migliore del listino, più 3,73%, seguita poi da Geox, più 2,77%. Vola IT Holding alla borsa milanese a riaccendere i riflettori sulle azioni del gruppo, in cui il valore di borsa da inizio anno è crollato, lo ricordiamo, di oltre l'80%, è stato un articolo del Mundo che sostiene che una società austriaca sarebbe interessata a IT Holding. Forte rallentamento in generale e l'inflazione, come segnalato dall'Istat, a novembre l'inflazione è scesa a più 2,7% dal più 3,5% di ottobre. Anche per quanto riguarda l'Europa, inflazione impicchiata nel mese di novembre, secondo la stima di Eurostat, è scesa al 2,1% contro il 3,2% di ottobre, tornando al livello di settembre 2007. Si va materializzando dunque questo rischio di deflazione dovuto al drastico calo dei consumi. Sempre più probabile poi un ulteriore tasso dei tassi da parte della BCE il 4 di dicembre. Infine, per chiudere questa lunga pagina finanziaria, il tasso Euribor sulla scadenza 3 mesi tocca i minimi da 21 mesi, scendendo al 3,85%, livello più basso dal 21 febbraio 2007, e poi l'Euribor a un mese calato di 4 punti base al 3,57%. Poi l'euro, quotato in questo istante sul dollaro, a 1,2842. Ma torniamo con voi a parlare di conti online. Se volete chiamarci, 800 24 00 24, 349 238 6666, per mandarci invece un messaggio con il cellulare. Ma sentiamo i dettagli che abbiamo radunato per voi in questa scheda. Parola d'ordine: restare liquidi. In questo momento di crisi, la fuga dagli investimenti tradizionali sta spostando grosse somme su strumenti a minor rendimento ma a capitale garantito, o quasi. E in prima fila, tra chi si contende i risparmi degli italiani, ci sono i conti correnti online, che hanno riscosso negli ultimi anni un successo sempre crescente. La ricetta dell'online banking è semplice. Tassi di remunerazione ben al di sopra dei conti correnti tradizionali, garanzie spesso identiche e in più una grande semplicità nel rapporto banca-cliente. Tuttavia, orientarsi tra le offerte non è così facile. La percentuale di rendimento non è infatti l'unica variabile da valutare e non sempre il risparmiatore comprende in che tipo di strumento sta investendo il proprio denaro. Per questo è bene informarsi prima di decidere circa i rischi che eventualmente si corrono. Si va infatti da conti protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 103.000 euro come i conti correnti tradizionali a depositi più remunerativi, che però si basano su pronti controtermine. Un altro fattore a cui prestare attenzione è poi la tassazione. È bene verificare sempre se le promozioni corrispondono a un rendimento netto. Comunque si voglia procedere, è meglio decidere in fretta. Con il calo dei tassi, infatti, a cominciare da quelli della Banca Centrale Europea, molte banche stanno già rivedendo le proprie offerte. E quindi noi parliamo di conti online, abbiamo per farlo con noi alcuni ospiti, in primis Maximilian Cellino, giornalista di Plus, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Poi Fabrizio Cioffi, direttore prodotti di risparmio di ING Direct, di Conto Arancio, insomma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Frédéric Defecherot, responsabile prodotti e pricing di WeBank, buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. E Franco Ravaglia, direttore generale di Fineco, buongiorno. Buongiorno. Allora, se volete chiamarci, ripeto il numero 800 24 00 24, per essere in collegamento con noi e con i nostri ospiti per parlare di conti online. Tra l'altro domani Plus ospita proprio una pagina su questo, Maximilian. Sì, la nostra storia di copertina riguarda un po' gli strumenti per la gestione della liquidità, i conti online, i conti deposito in primis, ma anche altri tipi di strumenti come gli stessi bot, i pronti controtermine e anche l'ETF sulla liquidità, che è uno strumento importante che sta guadagnando spazio nei portafogli anche dei piccoli investitori. Cercheremo di capire quindi dove è meglio mettere il proprio denaro. Fabrizio Cioffi, allora, Conto Arancio, insomma, proprio con Conto Arancio gli italiani hanno iniziato probabilmente a conoscere questi conti deposito. Come sta andando e quali sono le nuove offerte di Conto Arancio? Allora, Conto Arancio devo dire che sta andando e sta continuando ad andare molto bene. Evidentemente è un prodotto che ancora viene considerato estremamente adatto al risparmio, soprattutto in un momento come questo in cui l'attenzione al risparmio è particolarmente importante, l'attenzione alla liquidità è particolarmente importante. Le offerte, abbiamo ancora un'ottima offerta per tutti quanti i nuovi clienti, al 4,75% per 12 mesi, quindi un tasso direi estremamente allettante. Visto che prima si parlava di tassazione, ricordo che la tassazione è del 27%, quindi parliamo di quasi un 3,50% netto con questa offerta, e con l'offerta di Arancio Più, che vai dappertutto quanta la clientela, con tassi che vanno dal 3,90 al 4,60. Vedevo Maximilian Cellino scuotere un po' il capo, ma poi cercheremo nel dettaglio di venire a questi prodotti. Frédéric Defecherot, qual è la caratteristica invece della vostra offerta? Allora, WeBank ha un conto corrente vero e proprio completo dell'operatività bancaria, che remunera un 3,15% lordo. E anche noi in promozione questo conto corrente offerto ai nuovi clienti a un tasso lordo di 5,5%, questo fino a fine marzo. Franco Ravaglia, a lei spiegare ai nostri ascoltatori l'offerta di Fineco. Ok, il mio non è solo un obiettivo di spiegare un'offerta, ma spiegare più o meno una strategia. Io non credo delle offerte di breve periodo, credo che i nostri clienti si siano abituati a una remunerazione di lungo periodo costante nel tempo. È un po' come quando si va al supermercato a cercare le offerte, si cercano le offerte nei vari supermercati, si comprano le pere in un supermercato, la birra in un'altra e un altro prodotto in un altro. Alla fine si gira tanto, ma poi non si trova mai, alla fine si spende più di benzina di quello che si è risparmiato. Quindi noi pensiamo che deve essere un qualcosa di costante, di continuo nel tempo. Noi abbiamo ancorato il nostro rendimento al tasso BCE, i nostri clienti sanno benissimo che sul conto corrente otterranno un tasso pari a BCE meno 0,25, a questo momento il 3%, ma soprattutto hanno la conoscenza che questo tasso sarà sempre in linea con i tassi di mercato per tutta la vita del suo prodotto. Maximiliano Cellino, abbiamo presentato e abbiamo qui con noi tre rappresentanti per questi conti online. Cerchiamo di dare anche un panorama sugli altri che non sono presenti oggi ma che sono sul mercato. È interessante anzi questa presenza di tre persone con tre offerte differenti, perché ci fa capire che sul mercato noi parliamo sempre di conti online, conti deposito, come se tutti fossero uguali, invece abbiamo visto strategie differenti. C'è chi per esempio ha un semplice conto deposito che presuppone poi che ci sia un conto corrente operativo agganciato a questo conto deposito, c'è chi invece ha un vero e proprio conto corrente operativo e c'è chi invece, prima non è che scotessi la testa, in realtà Cioffi stava parlando di tassi e stava parlando di tassi di interesse lordi, poi giustamente ha spiegato che al netto della ritenuta del 27% scendono di un pochino, insomma il 4,75 diventa mi sembra 3,75. Era questa anche un'altra differenza. Bisogna fare attenzione al tipo di strumento che abbiamo sotto, perché come si diceva in precedenza anche con all'interno dell'introduzione, i veri conti, i conti correnti bancari e i conti deposito sono tassati al 27%. Altri strumenti che vengono utilizzati per vincolare il capitale e per un tot 1, 2, 3 o anche 12 mesi, ed era l'offerta che diceva all'inizio ING Direct, cioè questo capitale per ottenere il 4,75% lordo deve essere lasciato lì per 12 mesi. Questi altri strumenti possono essere strumenti di tipo diverso. E questo cosa vuol dire? Possono essere sia lo stesso conto deposito, come è il caso di ING Direct, sia bot, come è il caso per esempio di VBank, sia pronti contro termine, come è il caso di Fineco, magari ci spiegherà i suoi super save, o anche il caso di My Profit di WeBank. Ecco, in questi ultimi casi, cioè pronti contro termine e bot, la tassazione è diversa, la tassazione è 12,5% e quindi è un pochino più vantaggiosa. Peraltro c'è da dire che anche il tipo di garanzia è diverso, perché, e poi probabilmente dopo lo possiamo spiegare anche più in dettaglio, in linea di massima i conti deposito hanno, come si diceva in precedenza, la garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi fino a 103.000 euro. Altri tipi di strumenti hanno garanzie differenti, i bot ovviamente lo stato a garantire, i pronti contro termine hanno un sistema di garanzie un pochino più complicato che riguarda, bisogna andare a vedere qual è il sottostante del titolo pronti contro termine. Proprio un'ascoltatrice via SMS, Monia da Bergamo, ci chiedeva appunto se anche i conti online di banche come Ecita Fineco e Banco Sella sono garantiti dallo Stato. È così? Sì, perché sono conti deposito. Ravaglia. Allora, innanzitutto sono molto contento della presentazione che è stata fatta precedentemente, perché è stata molto esaustiva e spiega veramente bene quali sono le differenze tra un conto di deposito e un pronto conto termine, un super save come lo chiamiamo noi. Indubbiamente il conto di deposito, quando è nato anche da noi, non è nato come forma di investimento, è nato quando abbiamo cercato di trasferire ai nostri clienti l'economicità dell'operatività online. Online noi risparmiamo sui costi e online noi paghiamo di più sui conti correnti, però non è il conto corrente la forma di investimento corretta. Quando si vuole parlare di investimento si deve parlare di qualcosa più fiscalmente efficiente, e molto più fiscalmente efficiente è il super save. Infatti noi attualmente abbiamo la nostra offerta con un super save al 3,80 lordo, che poi quando si tramuta in netto è un 3,35, e che è molto diverso rispetto a un conto corrente che ha tassazione al 27. È vero, sono più rischiosi, sono meno rischiosi. Da un punto di vista formale, forse è vero che sono più rischiosi, ma alla luce di quello che è successo negli ultimi mesi, dell'esposizione che ha preso il governo nei confronti delle banche, io penso che questa rischiosità sia un po', non vorrei esagerare dicendo che non esista, però è veramente molto molto sottile la differenza rispetto al conto corrente. Noi facciamo questi super sale con sottostanti obbligazioni emesse dalla nostra capogruppo. Quindi in qualche modo diciamo al nostro cliente, va bene, non preoccuparti, i soldi indietro te li do io. Se io dovessi fallire c'è comunque la mia capogruppo che te li ridà. Le banche, il nostro governo ha detto che farà tutto per un modo per non far fallire, non credo che il nostro sistema bancario sia in crisi e quindi le condizioni di solvibilità sono estreme. Frédéric de Fécherot, citavamo prima, Cellino citava prima MyProfit, parliamone quindi. Sì, MyProfit. Il vostro prodotto. Sì, MyProfit è la soluzione, sì, di pronto conto termine che WeBank mette a disposizione dei clienti, che dà la possibilità quindi al cliente di vincolare certi importi da 1, 3, 6 mesi spuntando un rendimento diverso, superiore a seconda dell'andamento dei tassi, sfruttando anche la tassazione più bassa. Rispetto a quello che ha spiegato il nostro collega di Fineco, noi abbiamo una visione un po' diversa. Il conto effettivamente non è nato come uno strumento di investimento, però i nostri clienti l'hanno utilizzato in questo modo e si trovano molto soddisfatti. Quindi veniamo incontro a un bisogno di semplicità. Il pronto conto termine noi crediamo sia destinato a un pubblico un po' più sofisticato, che effettivamente ricerca una soluzione di investimento con caratteristiche diverse, quindi il vincolo è un elemento particolare del pronto conto termine rispetto al conto corrente. Sì, abbiamo anche alcuni ascoltatori in linea ai quali vogliamo subito dare il microfono. Carla da Milano, buongiorno. Buongiorno, premetto, io sono una buona cliente di una piccola banca, la quale, essendo favorita dal fatto che molti clienti fuggono dalle grandi per la tossicità famosa, ricatta un po' i piccoli clienti, cosicché mi ha messo alle strette perché io utilizzi il mio contante, e non ho voglia di farlo, investendo in titoli probabilmente tossici. Mi sono quindi data da fare e mi sono rivolta a Che Banca. Che Banca che oltretutto fa un'offerta un po' diversa da quella che avete presentato, perché nella forma del conto corrente vero e proprio, per cui si può provvedere con versamenti continui ma anche ritirando il denaro e mantenendo sempre 4,70 all'anno, se l'impegno è per un anno, 4,50 per 6 mesi e 4,20 per 3 mesi. Mi hanno mandato il contratto e nel contratto le spese praticamente sono azzerate e viene pagato soltanto il 27% che è la trattenuta fiscale, quindi anche le imposte sul conto corrente sono a carico della banca. La cosa che mi ha lasciato perplesse, sulla quale vorrei delle precisazioni però, sono le clausole vessatorie che si è obbligati a firmare, che riguardano la responsabilità limitatissima del cliente, della banca nei confronti del cliente e la possibilità del recesso in qualsiasi momento da parte della banca, oltre che del cliente. Poi c'è l'indicazione della Mediobanca, però un momento, una cosa... Sì, perché è la startup di Piazzetta Cuccia, sì. Sì, però bisogna precisare che in base alle ultime sentenze della Cassazione, la capogruppa a tutela dei clienti della capogruppo stessa non può in nessun modo intervenire nel caso di insolvenza di una delle società che fanno parte del gruppo. Capito. E questo è un aspetto che va precisato. Ora vorrei che diceste qualche cosa a proposito di questa novità, di questa società a socio unico che fa parte del gruppo Mediobanca. Bentornati da Valentina Furlanetto a Salvadanaio. Oggi parliamo di conti online. Prima del GR abbiamo parlato con Carla, che è cliente di Che Banca e lamentava un po' un contratto che secondo lei includeva anche dei termini vessatori o comunque con i quali non era d'accordo. Maximilian, cosa possiamo rispondere? Intanto complimenti a Carla perché è andata a spulciarsi per filo e per segno il contratto ed è la cosa che andrebbe fatta sempre e in generale l'italiano medio non fa con amare sorprese poi in futuro. Poi in parte vorrei anche tranquillizzarla su alcuni discorsi che ha fatto. Intanto stiamo parlando di che banca. Io sicuramente Carla ha idea delle offerte che ha che banca, deve fare molta attenzione a quello che le serve prima di tutto, perché il 4,7% di interessi anticipati si ottengono se uno mantiene il capitale impiegato per un tot di mesi, per 12 mesi in questo caso. Nel caso ne abbia bisogno prima, gli interessi non sono certo quelli. Seconda cosa, che banca ha diverse offerte, ha un conto deposito, ed è questo, ha un conto operativo collegato, che ha un canone, mi pare, di un euro al mese, un'inezia direi, e quindi se uno vuole trasferire i soldi dalla sua piccola banca a questa banca, per avere una banca vera e propria, deve accendere anche questo tipo di conto, sul quale le somme che vengono versate su questo conto operativo, ce ne sono di diversi tipi, non vengono remunerate. Questo deve essere molto chiaro. Poi altre cose, lei aveva dubbi sulla sicurezza, sostanzialmente sulle garanzie, e qui quello che viene fuori è che in ogni caso che banca è una delle banche che ha aderito al fondo interbancario di tutela dei depositi, per cui le somme sono comunque garantite fino a 103.000 euro, e questa è la garanzia. Sul fatto, ultima cosa, di vedere le condizioni, possibilità di condizioni, di variare le condizioni unilateralmente, questo esiste ed è anche per tutti, e io penso che qui in questo caso che banca si riferisca agli interessi che garantisce, che in questo momento sono indubbiamente molto molto vantaggiosi, ma non si sa per quanto tempo potranno durare. Da questo punto di vista, prima abbiamo sentito gli altri operatori, c'è chi è più trasparente e li lega al tasso ufficiale della Banca Centrale Europea, o lo stesso tasso, o lo stesso tasso meno 0,25%, in questo caso ha dei tassi più bassi ma è più trasparente. Altri invece stanno mantenendo gli stessi tassi nonostante il taglio dei tassi di un punto percentuale della Banca Centrale Europea, e adesso sono interessanti. Bisogna vedere per quanto riusciranno a mantenere questo tipo di tassi. Cioffi, riuscirete a mantenere questo tipo di tassi? E poi abbiamo un ascoltatore che via sms ci chiede di conto arancio, è tutelato come un conto deposito? Beh, mi pare proprio di sì in questo caso. Sicuramente, innanzitutto rispondiamo alla domanda, come gli altri interlocutori aderiamo al fondo di tutela interbancario, per cui siamo garantiti esattamente come i conti correnti e i conti deposito delle altre banche. Per quanto riguarda la trasparenza dell'offerta, è vero, il nostro tasso non è un tasso legato al tasso della BCE, siamo in grado di mantenerlo, lo abbiamo mantenuto negli ultimi tempi quando i tassi sono ridotti, e io credo che comunque la trasparenza sia fondamentale, quindi comunque informare con largo anticipo i clienti nel caso in cui le condizioni cambino, per dargli la possibilità di ponderare ancora la loro scelta, è un qualche cosa che sicuramente tutte le banche devono fare. Diamo anche la linea agli ascoltatori che pazientemente sono in attesa. Gianluca da Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei. Innanzitutto vivissimi complimenti per la vostra e per gran parte delle trasmissioni di Radio 24. Grazie, dica. La mia è una domanda molto semplice. Premesso che ci sono diverse banche che su questi conti deposito offrono dei tassi nominalmente piuttosto interessanti, tra le altre che banca ci sono altre che sono andate anche un po' più su in termini di rendimento lordo nominale. Quello che volevo sapere è, mediamente, visto che evidentemente l'obiettivo è comunque marginare su questi tassi e quindi creare in ogni caso un utile per l'istituto, volevo sapere mediamente gli impieghi di questa liquidità incamerata attraverso questi conti dove sono destinati o dove lo saranno visti gli attuali momenti di mercato. Grazie, le faccio rispondere da Frédéric de Fécherot di WeBank. Sì, allora invito il cliente anzitutto a tenere d'occhio il tasso Euribor a 3 mesi, che è un punto di riferimento per le banche nell'impiegare queste masse. Senza voler entrare in tecnicismi, sono somme che sono liquide, quindi disponibili al cliente in qualsiasi momento, quindi le banche o almeno parlo per la banca in cui lavoro, non impiega strumenti particolari, strumenti rischiosi, mantiene queste risorse, queste masse disponibili per il cliente, garantendo il rendimento per tutti. Ravaglia di Fineco. È una domanda molto, bisognerebbe parlare ore e ore di tutta la gestione bancaria per rispondere a una domanda del genere. Diciamo che tutte le banche raccolgono, tutte le banche hanno una tesoreria centrata. Noi a livello di capogruppo abbiamo una tesoreria centrata, le nostre disponibilità sono gestite a livello centrato appunto dal capogruppo e questa fa tutti gli impieghi possibili sul mercato. Non è il singolo euro che va a un'azienda piuttosto che un altro euro che va a un'altra, c'è un accentramento di tutta la liquidità e quindi distribuita nelle varie forme di impiego. Bruno da Roma, buongiorno, ci scusi, l'abbiamo lasciata un po' in attesa, dica. Senta, innanzitutto io sono un correntista in banca online, non so se posso fare il nome, comunque sì. Della Fineco, Fineco Bank. Sono soddisfatto di questa banca online. E l'unica domanda che volevo fare era questa: se uno sottoscrive un super save a 6 mesi e in questo frattempo, come è capitato ultimamente, il tasso scende, cosa succede? Viene aggiornato oppure rimane fisso per tutto il periodo che ha sottoscritto? Grazie. Allora Ravaglia, le chiedo, le passo direttamente. Invece è sempre bene ribadirli. Lei quando ha stipulato il contratto con SuperSave con noi ha stipulato un contratto a tasso fisso per 6 mesi, quindi qualsiasi cosa succedano sui tassi lei per 6 mesi avrà il tasso che lei ha stabilito. Non so cosa succederà quando il suo SuperSave scadrà, tra 6 mesi quando andrà a rinnovarlo avrà il tasso che sarà in vigore in quel momento. Grazie Ravaglia. Claudio da Bologna, buongiorno. No, finalmente. Dunque io facevo la domanda più o meno identica a quella del collega di Napoli. Il problema è, in effetti vorrei sapere dove mettono i soldi per dare delle remunerazioni così fuori. Come fanno? Mondo. Oggi i bot sono all'1,80, questi danno il 5. L'esperienza mi insegna che a tassi fuori dal mondo c'è un rischio adeguato. Adesso il signore prima ha detto ma il problema è questo, non è che facciano dei derivati probabile o vadano attorno a delle operazioni a rischio, perché poi i costi ci sono in queste banche, quindi chi li paga questi costi? Claudio, allora Cellino, poi diamo la voce anche ai responsabili di 3 di queste proposte. Sì, sono 2 ascoltatori che fanno questo tipo di domanda, come sì, possono? Perché è un classico, ovviamente uno vede delle belle remunerazioni e dice ok, dov'è il trucco, spiegatemelo, come fate a darmele, perché le altre mi danno 0,01 e voi mi date 4, 5, 6 quando era 6, insomma l'esordio del conto arancio. Se ne è parlato molto anche del conto arancio ultimamente, che è stato il primo con un'offerta di questo tipo, e mi ricordo che giravano anche le dicerie più incredibili che questo tipo di strumento era destinato a fallire in pochi mesi. Evidentemente così non è stato. E comunque c'è da dire, io girerei volentieri anche da questo punto di vista la domanda a Cioffi, perché ricordo che poco più di un anno fa proprio Plus 24 andò a cercare un pochino di capire quali erano gli impieghi di ING Direct sul conto arancio e si capì che gran parte del denaro veniva poi impiegato in titoli che erano asset backed securities, che spieghiamo purtroppo sono dei titoli che sono finiti un po' nell'occhio del ciclone. Ora magari Cioffi sarà un po' più preciso, perché sono poi quei titoli che hanno, alcuni di questi titoli, non tutti ovviamente, hanno dato il via, io la faccio in maniera molto semplice, mi perdonerà anche lo stesso Cioffi, hanno dato un po' via a questa ultima crisi finanziaria. Mi ricordo allora che ING Direct precisò che erano titoli con la massima solvibilità, allora si parlava di AAA e la cosa un po' è rimasta lì. Ovviamente io qui voglio chiedere lumi anche su questo tipo di impieghi, ma d'altra parte, lasciatemelo dire, non voglio nemmeno generare grossi allarmi nelle persone. Io ricordo sempre che c'è il fondo di tutela, di garanzia, che è 103.000 euro, e poi come abbiamo visto e detto in precedenza, con gli interventi dei governi è difficile, lasciatemelo dire, è difficile che le banche poi possano fallire. Bentornati a Salvadanaio, stiamo parlando con voi e con gli ospiti che sono qui con noi di conti online, conti deposito, ma non solo, oggi a Salvadanaio. E prima della viabilità volevamo dare la parola a Fabrizio Cioffi di Conto Arancio, perché Maximilian Cellino stava appunto parlando, e anche un ascoltatore ci aveva incalzato su questo, sugli investimenti, su come fate, qual è il trucco. Come dire, non c'è trucco, non c'è inganno, c'è una politica di gestione della tesoreria. Già gli altri colleghi avevano parlato di gestione di tesoreria accentrata, quindi di grosse masse, di masse importanti di investimenti sicuramente differenziati, ma che naturalmente devono tenere in considerazione il fatto che è una raccolta liquida e quindi devono essere investimenti di pronta liquidabilità. Attenzione a fare riferimento ai tassi interbancari, ai tassi di mercato e non ai tassi dei bot come prima faceva riferimento l'ascoltatore, perché quelli sono i tassi di riferimento ai quali le banche possono investire, che sono tassi più alti. Il riferimento di Cellino agli asset backed security, innanzitutto non demonizziamo un titolo nella sua categoria, dipende sempre da quali sono gli asset sui quali questi titoli sono costruiti. In limitatissima parte noi abbiamo fatto investimenti su portafogli. Noi in Italia abbiamo un portafoglio di 15 miliardi, quindi una diversificazione implica una ricerca di asset e di investimenti differenziata, una limitatissima parte, ma sempre comunque con grading di investimento elevatissimo. Noi cerchiamo di investire sempre su un elevato grading, non investiamo in azioni, non investiamo in prodotti derivati, investiamo in titoli obbligazionari o chiaramente sul mercato interbancario. Questa è la nostra politica. Diamo la linea anche a... Non dimentichiamo, sì, che comunque le banche online hanno un grossissimo vantaggio di costo rispetto alle altre banche, e quindi quando qualche ascoltatore si chiede come mai, marginalità, come fanno, certo, conto anche di questo. Che non avete sportelli o quant'altro. Certo. Antonio da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Complimenti intanto a Radio 24, che siete sempre molto precisi. Dunque, una domanda semplice, si parla sempre di una garanzia fino a 103.000 euro, se non erro, sia per i conti correnti normali sia per quelli online. Allora io mi chiedo, cioè, visto che se il conto corrente viene intestato a due persone, la garanzia, se non erro, raddoppia, però se uno è solo e ha una cifra più alta del 103.000, significa che il resto non è garantito. Grazie. Allora Antonio, anche grazie all'aiuto della nostra redazione che ci è venuta incontro su questo, la somma riguarda i 103.000 euro che lei diceva, ciascun cliente, se si hanno conti su più banche, ciascuna banca, il limite invece resta 103.000 euro totali se si hanno più conti nella stessa banca. Poi mi dicono anche che per i conti cointestati la garanzia vale, e quello che diceva anche lei, per circa 206.000 euro, insomma raddoppia. Allora, speriamo di essere stati esaustivi con Antonio Luciano da Lucca. Buongiorno. Buongiorno, io vorrei chiedere un'informazione. Mi sembra di aver verificato che non esistono conti online dedicati esclusivamente ad aziende o professionisti. Quindi per imprese, per aziende. Per imprese, certo, che hanno attività o titolari di partita IVA. Lei dice, lo ha verificato questo? Io per le verifiche che ho potuto fare mi sembra che non esistano conti online, cioè esclusivamente online dedicati a chi ha un'attività o una partita IVA. Ravaglia di Finecco, voi avete notizia dei vostri prodotti o di prodotti di concorrenti? Noi abbiamo tante aziende, tanti individui, tanti soggetti giuridici come nostri clienti. Ovviamente l'offerta online, diciamo, proprio di prima visualizzazione è rivolta alla clientela retail, ma se il vostro ascoltatore avrà la pazienza di chiamare il call center, sicuramente apriamo conti anche di questo tipo. Diciamo che è un target che si raggiunge diversamente, non si raggiunge direttamente online, ma se il cliente è stato ammagliato dal nostro online, ben volentieri possiamo aprire un conto anche di questo tipo. Frédéric de Fécherot, voi invece vi rivolgete a questa clientela, o anche per voi è un target un po' lontano? Allora, noi ci rivolgiamo a questo target con un prodotto specifico, effettivamente l'operatività di questo tipo di cliente è diversa da un cliente retail, però abbiamo voluto offrire una soluzione semplice, ma allo stesso tempo completa, di una soluzione online, di un conto corrente online, anche in questo caso con un buon rendimento e delle soluzioni di pagamento per i professionisti in particolare. Cioffi, alle imprese e alle aziende avete mai pensato di offrire a loro un prodotto specifico? Diciamo che attualmente sia il nostro conto arancio, il nostro conto di deposito che il nostro conto corrente sono rivolti alla clientela retail. Come banca del risparmio vediamo nei risparmiatori italiani il nostro bacino di riferimento. Attualmente non abbiamo un prodotto dedicato alle aziende. Maximilian, nella vostra paginata di Plus, che lo ricordiamo trovate domani in edicola, si parla anche di altri prodotti e si fanno dei confronti, quindi pronti contro termine, ETF e poi anche questi conti deposito o conti online. Chi vince? Chi vince? Anche qui guardiamo al passato, se guardiamo all'ultimo anno il più efficiente è stato l'ETF, ci sono un paio di ETF quotati a Piazza Affari che replicano un indice monetario che si chiama Eonia e ne hanno reso un 3,5% netto che batte un po' tutti i vari conti, compresi batte il bot ovviamente, batte le varie offerte anche vincolate. E l'ETF anche in questo caso è tassato al 12,5% ed ha delle commissioni molto basse, lo 0,15%, e quindi è uno strumento efficiente. Va detto che il cliente non si deve aspettare da un ETF un rendimento del 3,5% il prossimo anno, perché lo stesso ETF va a replicare un indice monetario che è l'indice Eonia, che segue, diciamo, dovrebbe seguire da vicino l'andamento dei tassi della BCE, a volte anzi li anticipa, e in questo momento è molto più in basso, un indice dice che all'ordo qualche giorno fa era al 2,9%, per cui toglieteci le tasse e le commissioni, è arrivata al 2,41% netto. Questo per dirvi che non dovete attendervi in generale gli stessi rendimenti dell'ultimo anno, il mondo è cambiato, i tassi stanno scendendo ed è chiaro che anche la remunerazione della liquidità, non lo chiamerei guadagno, ma una remunerazione, insomma, non di un investimento, ma di un impiego della liquidità, andrà a scendere. Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio gli ospiti che sono stati con noi quest'oggi, voi per l'ascolto, in redazione Gaia Romani e Valeria Coffaro, in regia Giorgio Matei, da Valentina Furlanetto è tutto. Salva Danaio torna lunedì.